Buongiorno a tutti. Anche la prossima settimana faremo due lezioni di recupero, probabilmente martedì se mi danno l'aula, mi auguro, ve lo farò sapere fra poco. Allora, leggevo una critica, mi è capitato di vedere che si fa normalmente, qui mancano le ragazze solite, dunque no, lei c'è, lei avete cambiato, che gli hanno fregato il posto, questo un po' mi deplace. Leggevo una critica che si fa spesso, mi sentite? Sì, che si fa spesso a questo romanzo, l'educazione sentimentale, l'ho vista mi pare su internet questa cosa qui, diceva un romanzo privo di natura romanzesca in tutte le sue parti, questo effettivamente è un giudizio che viene normalmente dato, in realtà è abbastanza inesatto, perché il romanzo ha delle scene teatrali, ha una natura romanzesca, ha una storia che tanto è vero è la storia che stiamo per l'appunto raccontando. Diciamo che rispetto a un romanzo tradizionale ci sono due cose di differente. Uno che accanto alla storia principale c'è tutta un'altra storia, ed è quella di cui non abbiamo parlato per motivi evidenti di tempo, di tutto quanto, di scelta, insomma, che è la storia dell'educazione politica, dell'educazione sociale, ecco, che fanno però, politico e sociale, fanno parte del mondo di Frédéric Moreau, dell'educazione sentimentale di ognuno. Questo è molto importante, cioè io vi ho detto inizialmente che educazione sentimentale è l'espressione da intendersi in due modi, educazione dei sentimenti, ed educazione effettuata in modo sentimentale. Va bene? Modubi. Se adesso stiamo alla prima definizione, educazione dei sentimenti, i sentimenti vengono educati non solo attraverso esperienze ovviamente sentimentali, ma anche attraverso esperienze sociali, attraverso esperienze politiche, questo non c'è alcun dubbio. Cioè io mi educo nei sentimenti anche purtroppo contemplando la faccia di Berlusconi, ecco, per intenderci, insomma, no? Cioè non è che il sentimento sia qualcosa di chiuso in un compartimento stagno, il sentimento è un qualcosa che ha contatto con il mondo. Quindi giustamente Flaubert poi ha costruito questa storia di educazione all'interno di un'educazione complessiva. E forse una parola bisogna dire, abbiamo detto tante parole per la verità su questo argomento, ma una in particolare bisogna dirla, questa, cioè qual è l'esperienza del mondo che fa Frédéric? È abbastanza semplice, è un'esperienza di delusione permanente. Vi ho detto, gli uomini sono traditori, sono falsi, sono arrivisti, ipocriti, non c'è un solo personaggio c'è un personaggio di tutti i personaggi dell'educazione che esce bene, ed è il personaggio di Dussardier. Dussardier è un ragazzone che crede alla buona politica, come si direbbe, pieno di entusiasmo e di passione, ma finirà male, come sto per vi dirò fra poco. E tutti gli altri sono beceri, sono persone volgari, cattive, tutti, i maschi e le femmine, no? I maschi lui li tratta, come sapete, peggio delle donne, insomma, ma la visione che c'è complessivamente del mondo dell'educazione sentimentale è una visione a dir poco tragica. Lo stesso eroe è un eroe, insomma, la parola è da prendere con molte riserve, insomma, se non nel senso che eroe è il personaggio più importante, perché è un uomo fiacco, debole, moderno, ad esempio è uno che non sa decidere sostanzialmente, non ha coraggio, che è trascinato dietro la propria passione, insomma, è quello che Flaubert riconosceva che era lui stesso, insomma. mi viene in mente adesso mentre vi sto parlando questa definizione, insomma. Sapete com'è, ognuno di noi ha i suoi problemi nella vita, più o meno gravi, e spesso quando si è giovani, quando uno sta male, ormai qualche decina di anni in Europa e nel mondo, altre decine di anni, varie decine di anni, fa l'analisi, va in analisi. La persona che va in analisi, se l'analisi funziona, cosa abbastanza non frequente, se l'analisi funziona, la persona che esce dall'analisi non è più quello di prima, chiaro? È una persona che ha un senso di sé, di se stesso, dei propri limiti, infinitamente più angosciante, tragico, anche più tranquillizzante, perché vedi per esempio quello che io dico sempre, la metafora dell'asticella, ve l'ho fatta mai? Forse non l'ho fatto. La metafora dell'asticella. Chi fa il salto in alto sa che c'è, il suo destino è legato a un'asticella, evidentemente. È legato a un'asticella e sa che salta tanto, no? Io quanto salto, per esempio, salto, non so, mezzo centimetro forse. Una delle cose che mi divertiva è che da ragazzo saltavo molto, poi aumentando avrei dovuto saltare di più, invece saltavo di meno. Quindi andavo in controtendenza rispetto ai miei compagni, che saltavano tutti molto di più, io sempre di meno. Forse una sorta di bastian contrario, così. Comunque, l'asticella, noi sappiamo che nella nostra vita è fissata a un certo numero. Sappiamo che, in senso metaforico, noi possiamo fare entro quello, il limite, e non possiamo fare di più. Non c'è niente da fare, no? Uno vuole diventare leopardi e non ce la fa. Ho pensato, vi ricordate quello che vi ho detto di non andare in libreria? Poi mi è venuta stamattina in mente una cosa che volevo dirvi, come aggiustamento. Piuttosto che andare in libreria a leggere un qualsiasi libro, specialmente Premistrega, Campiello, eccetera, eccetera, un qualsiasi bestseller, quando vi viene una tentazione, era questo il pensiero che ho avuto, quando vi viene una tentazione del genere, pensate di fare una cosa diversa, di andare in una stazione di servizio e di stare per un'ora in piedi in una stazione di servizio guardando le macchine che mettono benzina. Sarà tempo meglio impiegato. Mi piaceva molto che questa frase mia arrivasse a voi. No? È quella tizia che l'altro giorno in televisione aveva 21 anni, ha fatto il libro e ha detto, ma forse non è un po' presto per fare un libro? Ma io scrivo fin da quando avevo 4 anni. Non ci sono altre parole, non ci sono altre. Ma con quale cultura? Ma questa gente che non tira l'acqua quando va al bagno. Ha capito questo concetto? Che non tira l'acqua quando va al bagno. Io sbavo, e questo purtroppo è una mia diminuzione, questo sbavare che ho in certi casi quando penso a queste cose, al baricco, eccetera. Chiuso, dovete perdonare, insomma, a questo punto. Cosa stavo dicendo? Che poi mi incazzo e dimentico. Cosa stavo dicendo? Che si vede proprio bene l'asticella. L'asticella. L'asticella. Ognuno di noi ha un'asticella collocata a un metro e dieci, e sappiamo che non possiamo andare più di tanto. Ecco, nel caso di Frédéric, ecco il punto. È uno che non... Però, un momentino, però cerchiamo di aumentare, di alzare l'asticella. È uno che non alza l'asticella. Questa è una metafora splendida. Tutti noi cerchiamo di saltare un po' di più. Ma in realtà non ce la facciamo, però cerchiamo, e lui no. Lui in realtà vuol mantenersi, e questa è la condizione splendida dell'uomo moderno, che è quella che la Chiesa, con la sua lungimiranza, come sapete, capisce molto bene. Devo fare ogni giorno un attacco alla Chiesa, se no non mi sento a posto, non mi sa il Papa, non mi sento a posto, che volete dire? Voglio i suoi. Insomma, tutta sta storia lì, con Madame Arnoux che si vedono ma non si fanno niente, ma ha senso un fatto del genere? Ma uno diventa impotente, no? E allora lui pensa, ma perché tutto sto casino? Se avessimo una stanza, se io la invitassi, no? Perché poi a un certo momento uno vuole la ciccia nella vita. Questa è un'altra bella cosa. Nella vita a un certo punto si vuole la ciccia. Non si può vivere solo con degli antipastini. E a un certo punto uno vuole mangiare la bistecca. E qui la bistecca, in senso metaforico, è proprio il contatto della vita stessa. E allora lui che cosa fa? Lui ha un sacco di soldi. C'ha un sacco di soldi, come sapete, dopo l'eredità, eccetera. E quindi affitta una stanza, cosa miseranda, triste. Triste. Quando uno arriva al punto di affittare una stanza, non so se l'avete fatto, forse no, probabilmente no, avete altre abitudini, insomma, ma è melanconico, affitta una stanza, la padrona di casa naturalmente capisce subito perché lui affitta la stanza. Affitta questa stanza per un mese, pensando in un mese mi tolgo lavori, e compra tanti arredi squisiti per la stanza, tappeti, tappetini, coperte, ninnoli, fiori, tutto questo per poter accogliere, ove mai lei accettasse, per poter accogliere la signora Arno. E un giorno, insomma, per farla breve, glielo propone di incontrarsi, e dicendo che lui la rispetterà sempre, eccetera, insomma, ma le propone di incontrarsi. Questo è un punto che purtroppo non possiamo leggere, ma è bellissimo naturalmente, ma è troppo lungo, e quindi prendono un appuntamento, non mi ricordo più se era un martedì, mettiamo che fosse un martedì, dalle 3 alle 4. E voi potete immaginare com'è quel martedì. È dire effervescente poco, se non che quel giorno c'è la rivoluzione. C'è la rivoluzione, vi sono delle sommosse, e questa è la parte bellissima del libro, bellissima, lunga, e su cui abbiamo dovuto saltare questa. La rivoluzione nasce da queste condizioni, che vi prego comunque di ascoltare molto bene. Voi sapete che siamo stati politicamente, finora nel racconto del romanzo, sotto la monarchia di Luigi Filippo, il re borghese. Si chiama il re borghese Luigi Filippo d'Orléans, si chiama il re borghese per un motivo molto semplice, perché aveva potuto venire al trono dopo Carlo X, dopo Luigi XVIII, eccetera, con un aiuto dei borghesi. I borghesi erano, ricordate, borghese da borgo, cioè villaggio, la parola borghese da dove viene. Chi erano i borghesi? I borghesi erano i commercianti, gli industriali, i notai, cioè i borghesi, ve l'ho già detto una volta, ma mi pare che sia giusto ritornare su questo argomento, erano coloro che erano senza padrone. Gli altri stavano alla corte, stavano dal feudatario, no? Quindi borghesia ha significato inizialmente una condizione di modernità, libertà, di spregiudicatezza. È stato in seguito nell'Ottocento che la borghesia è diventata il luogo in cui si facevano solo soldi, e quindi gli interessi, per così dire, dello spirito non erano più curati. Quindi quando Marx, a metà dell'Ottocento, sa chi è Marx? Carlo Marx, detto Carletto. Quando Marx se la piglia con la borghesia, perché se la piglia con la borghesia? Perché di fatto questa classe, che avrebbe dovuto essere in fondo libera, indipendente, eccetera, era diventata serva di se stessa e dei propri interessi, incurante di tutte le cose che riguardassero l'intelligenza e la cultura. Per cui ci fu, specialmente al tempo di Luigi Filippo, in Francia, una divaricazione fra gli intellettuali, che non si chiamano intellettuali, ricordate, non farò mai questo errore, La parola intellettuale è una parola che, 1840, questi anni, non esiste ancora. È una parola che viene inventata, quando? Dopo? Quando? Ma in quale, in concomitanza di quale avvenimento politico di notevole peso in Francia? La terra tra i tre. Prima non c'era parola intellettuale. Questa era una cosa importante. E quindi c'era una divaricazione fra, diciamo così, quelli che chiamiamo intellettuali, la gente di cultura, e i borghesi. Quindi gli artisti si mettono contro la borghesia. Quindi quando voi dite, ma come mai ce l'avevano tutti contro la borghesia? Baudelaire, Flaubert, ah, per questo motivo. Per questo motivo. Perché c'era proprio una separazione tra questo settore della società che si dedicava ai soldi e l'altro che si dedicava alla cultura. Questo è molto importante capirlo, perché non capendo questo, per esempio, vi sfugge il significato di quello che è uno dei più grandi portati della cultura italiana, e cioè l'opera. Non so quali opere voi conoscete. Certo, non fa parte, per fortuna adesso la musica pare che riscuota un successo sempre maggiore negli insegnamenti liceali, ma insomma, voglio dire, conoscere le opere più importanti dell'Italia, che si può dire ha inventato l'opera, è fondamentale. Come fate a capire Verdi? Come fate a capire Puccini? No? Se non capite questo, che l'artista era uno con le pezze al culo, da una parte, e dall'altra parte c'erano i borghesi, ricchi, con i soldi. Bene, spero che queste notazioni varie di sé. A un certo momento, durante questa monarchia di Luigi Filippo, avviene quanto segue. Avviene, in concomitanza con altri fatti politici europei, faccio una parentesi, un po' come è stato nel famigerato 68, in cui voi eravate nel mondo dei sogni, in cui io invece ero ben piantato con le zampe per terra nel 68 e ho fatto cose nel 68, diciamo, di tipo politico, mi hanno anche buttato giù un banco dall'alto, mi è arrivato e mi ha toccato la spalla, ecco. E le macchine venivano bruciate per la strada, eccetera, eccetera. Il 68 fu un fatto non italiano, fu un fatto francese, venne fuori dall'America, da Berkeley, dalla California, no? E il 48 di cui stiamo parlando fu un fatto europeo. In Francia cosa successe? In Francia la scintilla fu data da una cosa molto interessante, dai banchetti elettorali che venne proibiti. Cos'erano questi banchetti elettorali? Erano dei banchetti, in senso reale, come ci sono quando ci sono, non so, le richieste di un referendum, per esempio, in cui si chiedeva da parte di forze, diciamo, di sinistra o progressiste genericamente, si chiedeva l'allargamento del diritto di voto, no? Che non votassero più solo persone di un certo censo, non parliamo delle donne, lo sapete che le donne in Italia, per esempio, hanno votato solo del 46, mi pare, c'è stato. 49? No, 46, con il referendum del 46, la Monarchia Repubblica, hanno votato solo allora. Prima volta le donne, prima non avevano mai votato. Quindi la richiesta era questa, allargare il diritto di voto. Voi capite che al potere questo fatto che il diritto di voto fosse allargato dava noia assai, perché erano tutti voti che potevano essere contro la monarchia. Qui ci furono delle resistenze, ve lo dico proprio in sintesi, tremende, vennero fuori delle repressioni terribili con decine di migliaia di morti. La descrizione che fa in questo libro mirabile, che è l'Educazione Sentimentale Flaubert, di queste persone, che erano altro che le carceri di massima sicurezza, erano tenuti in stambugi, e quando cercavano di venire vicino alle grate, racconta Flaubert, con le baionette e con il calcio del fucile, li massacravano. La Guardia Nazionale li massacrava. Parigi divenne un campo di battaglia. Uno dei giorni in cui cominciava questa insurrezione, guarda caso, tornando alla nostra storia, fu quello dell'appuntamento tra Frederico e Madame Arnoux. Diciamo che a lui gli ha detto sfiga, diciamo, aspetta che venga, aspetta. E naturalmente un amante che aspetta alle 3:05 comincia già a sentirsi male. E poi un amante diventa pazzo, perché fa 10 volte la strada, guarda l'orologio, lo controlla, pensa che una persona che sta lontano sia lei, si confonde, no, non è lei, 3:30, 3:15, 4. Attribuisce questo forse ai disordini che ci sono nella città, insomma, alle 5 non è venuta. E lui è in una disperazione completa. L'ha tradito. Quello che voi naturalmente direste con il linguaggio romanesco, di giovani che vi distingue, gli ha dato. Però voi capite che dietro di questo c'è ben di meglio. La camera mobiliata, tappeti, coperte, quadri, dolci, era tutto pronto. E questa non è venuta. E allora lui decide che basta, che non ne può più. E va da Rosanetta. Vedete, la teoria delle panchine lunghe è molto importante. Mai avere nella vita una donna sola. La teoria della panchina lunga, forse un linguaggio che non conoscete, qual è la differenza sostanziale, facciamo un paragone di alto livello filosofico tra l'Inter, c'è una squadra che si chiama Inter, e altre squadre, e che l'Inter ha la panchina lunga, nel senso che giocano in panchina, ci sono dei giganti che parlano molto bene, bravo. Speriamo veramente quella fanciullina meravigliosa, Miss Eleganza. Si ricorda quella cacao blanco. Quella è una che non tira l'acqua al gabinetto. La panchina lunga, voi dite, ma la panchina lunga vuol dire adulterio? Al passo. La panchina lunga significa che se una persona muore, che se una ti tradisce, quindi scrivetelo, vi dico, guardate questo veramente, non fate gli stronzi che poi non lo segniamo. A capo del letto la frase è questa: non disprezzare la panchina lunga. Si tratta di gestirla bene, non nel senso che tu tradisci, no, naturalmente se uno va con due donne contemporaneamente, assolutamente, due uomini no, ma ricordatevi Mourinho. Sia per tutti noi, io sono un romanista, sia per tutti noi di ammonimento Mourinho che la panchina lunga. A questo punto lui va da Rosanetta. Con Rosanetta, peraltro, essendo lui un bravo ragazzo, si era limitato finora a dei pourparlers affettuosi. E d'altra parte, ci sono dei ragazzi, anche fra voi si vedono, che hanno, adesso non so in questo momento, che hanno delle facce buone, caste, pulite, forse no, forse tutti figli di buona donna, ma penso di no, alcuni si vedono che hanno una facciotta e quindi che si mantengono un po' così sulle generali quando hanno un rapporto con una donna, non vanno al dunque sostanzialmente. Perché? Perché non osano, perché sono timidi, sono, no? E lui dice, ma chi me lo fa fare? Dice questo, ma perché io devo? E allora va da Rosabella. Il libro è qui, è il capitoletto 27, 27, e lo trovate, adesso vi dico subito, dunque, dal 26 dovete 1, 2, 3, 4, 5, 6. È il capitoletto che inizia così. Ah, madame est dans un bel état. E la renvoyé ce matin son groom. 310. Voi sapete come vive Rosanetta. Lei non ha una panchina lunga, lei ha uno stadio sostanzialmente. A uno stadio, cioè c'è uno l'altro che si alternano, no? Ma in fondo però, al di là del senso umoristico naturalmente con cui Flaubert guarda queste cose, chi è meglio per vivere? Al di là dei pregiudizi, dovete sapere che questo romanzo, L'educazione sentimentale, Madame Bovary era l'indice dei libri proibiti della Chiesa, e L'educazione sentimentale, mi ricordo perfettamente lui, manuale della Chiesa Cattolica, era considerato accessibile solo per ragioni di studio scientifico, tanto era giudicato poi spregiudicato e immorale. Quindi con chi si vive meglio? Con le Rosanette o con Madame Arnoux? Insomma, perché Madame Arnoux effettivamente è un peso micidiale. Va da Rosanette. Va da Rosanette. E Rosanette è pure lei coinvolta in tutto questo bailamme che sta scatenandosi in Parigi. E capite, Rosanette è una, come dire, che è una, vive nel suo lavoro, come dire. Capite cosa intendo dire, no? È come dire, seduta sulla sua fortuna, se posso usare questa espressione famosa. È un'espressione non mica. Quindi ha bisogno, non è un'espressione celeberna questa, quindi ha bisogno che non di poter continuare la sua attività veramente. Arriva, le apro e la cameriera le dice, ah, la signora è in un bello stato, ha mandato via questa mattina il suo groom, lo staffiere, che l'insultava. Crede che ci saranno devastazioni dappertutto, saccheggi, saccheggi, pie, saccheggi dappertutto, scoppi, crema di paura, tanto più che il signore è partito. Quale signore? Il principe. Ferrite entrò nel boudoir, la marescialla apparve in sottana, i capelli sciolti, sconvolti. Ah, grazie. Tu vieni a salvarmi, è la seconda volta, e non domandi mai niente in cambio. Tu, mille scuse, disse Frederick, afferrandola per la vita a due mani. Come? Che fai? Balbettò la marescialla al tempo stesso sorpresa e rallegrata da quelle maniere. E lui rispose, seguo la moda, mi riformo. Siccome i banchetti, vedo che lei è una faccia un po' scandalizzata. Lo immaginavo, perché la ragione di non aver capito. Perché questi banchetti riguardavano la riforma elettorale. Allora, capito? Anche lui vuole riformarsi. Quindi se prima era il bravo ragazzo pulitino che non allungava le mani, adesso, è chiaro adesso? Chiaro, penso. Adesso invece vuole riformarsi e quindi possiede, come una volta si usava dire, Rosanette. E naturalmente Rosanette non è un modello di coraggio, come vi dicevo, insomma, è una che deve cercare di mantenere le sue condizioni di sussistenza sostanzialmente. Qual è il signore che sta con lei? Il principe? Chi è? Non è venuto. vedete come Rosanetta è sempre convinta, perché a volte una ragazza crede, una donna crede che un uomo sia, per esempio, i timidi fanno una brutta fine con delle donne. Quelli pensano che questi qui siano timidi, non, restino sempre così, non abbiano desideri, non abbiano niente. Invece magari ci sono delle persone che sono piene di vitalità, ma sono timidi, no? E però uno può cambiare, è vero o no che può cambiare? Ecco, ma lei lo dice con questa faccia così di ride, allora mi colpisce, e lì la faccia di ride. Cioè, da maschio proprio, ecco. Cioè uno è dolce, gentile, ma al momento opportuno poi può cambiare. E quindi, ma si è contenti in questa condizione? Guardate la pagina a fianco, il capitoletto 28, che adesso consideriamo. Stanno andando, resta con Rosanette dopo l'amore, stanno andando per Parigi e lì continuano a sparare da tutte le parti. A sparare da tutte le parti. È una specie di guerra civile. È una specie di guerra civile. Guardate il capitoletto che inizia con A on casque que bourgeois. Sentono dei colpi di fucile e Frédéric commenta: ah, stanno ammazzando qualche borghese, disse Frédéric tranquillamente. Perché ci sono situazioni in cui l'uomo, meno crudele, è così distaccato dagli altri che vedrebbe morire il genere umano senza un battito di cuore. La maresciallo, afferrata al suo braccio, batteva i denti e si dichiarò incapace di fare 20 passi ancora. Allora, per una raffinatezza di odio, per meglio oltraggiare nella sua anima Madame Margot, egli la condusse fino alla casa di Rue Tronchet, nella camera preparata per l'altro. I fiori non erano appassiti. La coperta di cami sul letto si stendeva. E lui tirò fuori dall'armadio le pantofoline e Rosanette trovò quelle attenzioni molto delicate. Verso 1 del mattino fu svegliata da un rullo di tamburi lontano. Ed ella vide che lui singhiozzava. La testa affondata nel cuscino. Che cos'hai? Dimmi, amore mio. Un eccesso di felicità, disse Frédéric. È da tanto tempo che ti desideravo. E l'amarezza, l'ironia di questa battuta, la sentite? Cioè, è quello che lui non voleva, no? Questa è una delle cose più interessanti della morale flaubertiana. Noi otteniamo nella vita delle cose, ma non sono quelle che desideravamo. Ecco. E chissà, mi viene in mente in questo momento una celebre battuta, sapete che era famoso per i suoi paradossi, Oscar Wilde, conoscete tutti Oscar Wilde, no? Ecco, che diceva: c'è una sola cosa peggiore di non ottenere quello che desideriamo. Ed è ottenere. Ed è ottenere, come dice? Perché non la si vuole più, perché si scopre lo squallore di questa cosa, eccetera. E quindi, insomma, c'è una delusione permanente. Lui è costretto ad andare, costretto si può dire, dalla sua rabbia, ad andare a letto con Rosanette. E naturalmente per Rosanette non è niente. Lui è soltanto un signore particolarmente distinto e gentile tra tanti uomini che lei ha, naturalmente, ma è una persona che può aiutarlo, che può aiutarla, e nella sua paura può aiutarla, capite? Ecco, e allora lui però ormai odia lei, perché quando si ama molto, qualcuno di voi, forse per la pura limitata esperienza della vostra giovinezza, l'avrà capito, e la persona poi ci rifiuta, l'amore si converte in odio. Noi non odiamo in genere degli sconosciuti, ma delle persone che abbiamo conosciuto in senso opposto, che ci hanno tradito, e allora vediamo la loro presenza con assoluto disgusto, con rifiuto. E così lui vuole oltraggiare Madame Ragù. Quest'idea dell'oltraggiare Madame Ragù dentro di sé, dell'oltraggiare Madame Ragù dentro di sé, è molto significativa e importante. Perché è stato finora limitato nel proporsi a Madame Ragù? Perché l'ha resa un Dio. Freud, in un saggio bellissimo che vi ho già citato, di secolo fa, e che si intitola, e se avete modo di vederlo, sarebbe molte cose di Freud sono invecchiate, Freud era un genio assoluto e moltissime rimangono di bellezza e verità assoluta. Un saggio che è del 1913, credo, e si intitola Sulla universale degradazione della vita amorosa. Freud dice che la tendenza del maschio, sapete che Freud si occupa degli uomini, perché la donna non ha capito praticamente niente della psicologia femminile, non interessava, è come se le donne fossero una specie di arredo della realtà a quell'epoca, lui vive in una condizione totalmente diversa, ma viene a casa. Quando un uomo desidera una donna, dice Freud, e la idolatra, non è in buone condizioni per amarla, anzi diventa sempre in peggiori condizioni perché è troppo alta. E quando la idolatra, cosa significa? Dice, significa che in realtà ha in mente, questo di travolgente verità, senza saperlo, l'immagine di sua madre. E siccome uno non è portato, anche se lo desidera, ad andare a fare delle avance sessuali nei confronti della propria madre, allo stesso modo questo tabù dell'incesto funziona con la donna che noi idolatriamo. E seguendo questo perverso sistema di idolatrare la donna a una certa età, l'uomo, diceva Freud, diventa impotente. Allora bisogna che impari a degradarla. Quindi, quando si rivolge il ragazzo alla donna e gli dice, ah, troia, porca, eccetera, eccetera, o altre cose di questo genere qui, e le fa pipì addosso, insomma, adesso non esageriamo, ma insomma, sono altre cose di questo genere, è per cercare di acquistare una distanza salvifica dalla donna. Quello che Frédéric non fa è acquistare questa distanza, e adesso in questa scena, letta da questo punto di vista, vediamo quanto sia interessante. Vuol degradare Madame Ragù, ma non solo per odio, ma per conquistarla dentro di sé. Avete capito bene? Questo è un discorso molto importante. Se io non degrado l'oggetto d'amore, non lo posso afferrare. E l'oggetto d'amore, per essere goduto, deve essere afferrabile. Fermiamoci.